Posso aggiungere una cosa? Ecco, Vai, vai. l'irrazionale non è un qualche cosa che si associa all'essere più o meno prossimi alla tecnologia. Sicuramente l'essere chiusi in compartimenti stagni, che siano tecnologici, che siano delle mille discipline e punti di vista che ci sono, quello è sempre il fondamento, la base di un integralismo, di un'irrazionalità. Si può essere profondamente singolaristi e irrazionali. Quindi l'irrazionalità credo che trovi più la sua cartina tornasole, la sua lucina d'allarme nella mancanza di un punto di vista transdisciplinare, nell'incapacità di mantenere una riflessione vivo il dialogo tra punti di vista diversi. Ecco. Questo penso che sia. Poi, per quello che è il discorso che stai facendo tu, su come ci siano ancora degli ostacoli ideologici, culturali, su quella che è l'integrazione uomo-macchina, l'impatto della tecnologia, eccetera, eccetera. Sicuramente, sicuramente. Però ci tenevo a non fare l'associazione tecnologia uguale razionale, perché non esiste questa. Ah, ultima cosa, Numenta, sì, li conosco, secondo me in buona parte è molto una grande capacità di marketing, nel senso che sicuramente è interessante per l'evoluzione delle reti neurali, nello sviluppo di nuove logiche per soluzioni di problemi, ma da lì a dire che stanno riproducendo le capacità del cervello perché stanno simulando, si stanno approssimando al funzionamento della corteccia, e dal punto di vista neurologico, pelli, insomma. Però so che stanno avendo abbastanza successo, vedremo, insomma, si segue anche il progetto quello che c'è finanziato dall'IBM, no? Quello dove Sì. stanno cercando di riprodurre intere Blue porzioni di gruppi di neuroni e. Gene. Di blu. Esatto, Blue Gene. esatto. Sì, per carità, benissimo, però Domanda. dal mio punto di vista sono lontani mille miglia, ecco. Poi si va avanti, per carità.